Con Giorgio Latini, curatore di Beat Generation, una lettura concerto in scena all'Altrove Teatro Studio a Roma, domenica 24 febbraio 2019. Giorgio, ben trovato. Ciao, ben trovato a te. Ci racconti di questo lavoro? Sì, allora, Beat Generation è una lettura concerto, quindi è una staffetta fra musica e lettura per raccontare un periodo che è quello degli anni 60, quindi diciamo l'evoluzione del genere letterario beat che ha le sue radici negli anni 40 ed esplode negli anni 50 e poi tutto l'impatto che ha avuto all'interno della cultura di massa nel decennio 60. Come avete lavorato? Su quali testi? Il testo in realtà è originale, quindi sono fondamentalmente tutte quante note bibliografiche, retroscena di quel periodo lì e di tutti i gruppi. Quindi abbiamo deciso di capire per raccontare una serie di movimenti, quindi quello beat, quello hippie, la Summer of Love, la nascita della psichedelia, e siamo partiti al contrario, cioè abbiamo capito che cosa ci interessava raccontare e abbiamo capito quali potevano essere i pezzi più emblematici a fare da filo conduttore per raccontare questo decennio. Su cosa avete voluto concentrare l'attenzione? In termini musicali, su insomma, i gruppi più importanti del periodo, quindi sicuramente Beatles, Stones, Jefferson Airplane, abbiamo inserito anche alcune chicche magari americane, sia da autori più famosi come Bob Dylan, però anche Leslie Gore, Bobby Gentry, quindi autori che lì sono stati iconici e che da noi sono un po' meno conosciuti, mentre invece dal punto di vista, diciamo, narrativo abbiamo voluto cercare di far capire questo dualismo che esisteva in quegli anni, cioè un grande movimento di ribellione a livello giovanile e la fatica da parte delle major e dei produttori di cercare di incanalarlo il più possibile in qualcosa sia di vendibile ma soprattutto di omologabile. Quindi c'era una sorta di lotta intestina fra ribellione e controllo. E per quanto invece riguarda gli scrittori? Per gli autori abbiamo preso come riferimento sicuramente Kerouac e On the Road, che è un po' il capostipite di tutta quanta la letteratura beat. Comunque è un romanzo che è già interessante per sé, richiede 6 anni per essere pubblicato, perché nessuno vuole pubblicarlo perché viene considerato un libro sovversivo, c'è cioè una grande opposizione, viene cancellato dalle storie della letteratura della stessa università in cui è cresciuto Kerouac. Quindi partendo da quello come movimento sotterraneo letterario, facciamo vedere come si è inserito entrando in contatto con artisti anche spesso lontani dai riflettori. Per voi cosa mantiene di attualità la Beat Generation? Sicuramente, cioè, penso che nel mondo di oggi in cui ci troviamo rispetto a così tanti cambiamenti, e la mia riflessione è stata soprattutto sulla rete, cioè la rete è un grande appiattimento di tutto quello che succede, quindi l'informazione viene appiattita, cioè cerchiamo di diventare tutti quanti sempre più simili, però è interessante, io mi rendo conto che oggi il contrasto è tra vite online e vite dal vivo. Nelle vite dal vivo spesso ci sono dei confronti, dei bar letterari, delle zone franche in cui ci può essere un colloquio vis-à-vis in cui nascono probabilmente le idee più interessanti del giorno d'oggi e credo che anche tutte le persone che vengono insomma, diciamo, attaccate a un movimento dicendo che fanno parte di quello, votano per questo o quell'altro, poi parlandoci a voce tirano fuori delle sfumature molto più interessanti, secondo me. Data unica domenica 24 febbraio e poi cosa succederà? Sicuramente vogliamo portarlo quest'estate a un festival musicale, però non anticipo niente, niente di più in questo senso perché nel teatro è sempre tutto quanto da confermare, quindi appena avremo delle date per la nostra tour estivo, insomma, poi adatto come insomma, uno spettacolo di questo tipo, direi usare la parola tour, sicuramente vi faremo sapere tutto quanto. Nell'alternanza tra letteratura e musica, quante sono le tracce che avete selezionato? Sono 16, abbiamo 16 brani musicali a fronte di 14 brani narrati, perché abbiamo uno in apertura e uno in chiusura. Ok, e per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Assolutamente, allora la nostra pagina è Altrove Teatro Studio, la trovate su Facebook, lì trovate tutti quanti i nostri contatti, potete anche trovare il nostro numero di telefono che è il 339-8175-904 o se volete prenotare a mezzo mail i pensieri dell'altrove @gmail.com. Un'ultima curiosità, come avete pensato la messa in scena? È molto essenziale in realtà. Abbiamo cercato di ricostruire proprio i pub, gli albori di questi gruppi, perciò è una messa in scena molto concertistica in questo senso, molto semplice, con un narratore che poi appare e si alterna in una staffetta. E allora ricordiamo Beat Generation, lettura concerto a cura di Giorgio Latini, domenica 24 febbraio 2019 all'Altrove Teatro Studio a Roma. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo lì. Perfetto, grazie.